Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Appuntamento numero 267 del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo. Siete in contatto con il Groove Master Studio per una puntata dedicata alle grandi voci del jazz, perché ho ricevuto una mail molto carina scritta dalla signora Stefania, che ha scritto al nostro indirizzo di posta elettronica, che è sempre lo stesso, soundcheck@radio24.it. La nostra amica Stefania è un po' preoccupata per la figlia, perché pare che da grande voglia fare la cantante di jazz. E certo, sarei preoccupato pure io, anch'io lo sono, perché mia figlia, che adesso ha 10-11 anni, ha già intrapreso il suo percorso da appassionata di musica, studiando pianoforte e un po' di canto. E naturalmente questo è il primo consiglio che ho dato a Stefania, alla quale ho scritto una bellissima lettera. Il primo consiglio è quello di trovare un bravo insegnante di canto, ma anche di pianoforte. Magari nella stessa persona riesce a trovare due insegnanti, due pigioni con una fava, come dire, perché è importante per un cantante non solo apprendere le tecniche per mantenere la vocalità in salute, ma anche avere una ottima base armonica. E naturalmente, dopo aver fatto un bel esame da un otorino laringoiatra specialista in voce artistica, che potrà quindi capire lo stato di salute delle corde vocali di tua figlia, mia cara Stefania. E naturalmente poi la regola numero uno per tutti i musicisti, c'è questa regola: ascoltare tanta musica e soprattutto ascoltare i grandi maestri. È così che si apprendono le nozioni del jazz, è così che si imparano gli standard di jazz, è così che si impara l'espressione nella vocalità, che è una delle cose più importanti. E quindi, come non ascoltare ancora una volta al soundcheck la classe, la naturalezza di una delle voci più belle della storia della musica, quella di un signore chiamato Nat King Cole, del quale più volte abbiamo parlato qui al soundcheck. Questo signore che addirittura pensava che la sua voce migliorasse fumando sigarette al mentolo prima di una registrazione o di un concerto. Musicista, il primo musicista nero a avere un programma radiofonico a suo nome, ma anche un programma televisivo, più tardi poi chiuso proprio per motivi razziali. Eccolo qui, Nat King Cole con il suo trio, in un classico del suo repertorio intitolato Candy, una registrazione del 1956 con la partecipazione di Harry Sweet Edison. Mia cara Stefania, Nat King Cole per tua figlia, qui al soundcheck di Radio 24. E sì, nella nostra personale discografia non può mancare almeno una compilation con tutti i grandi successi di Nat King Cole. Sinceramente, il periodo, le performance che preferisco di Nat King Cole sono quelle con il trio, piuttosto che le registrazioni con l'orchestra, anche quelle favolose con orchestra d'archi, però quelle sono un po' più romantiche, proprio nel periodo, ecco, potremmo definirlo più pop di Nat King Cole. Nat King Cole ha poi generato anche una formidabile cantante come Natalie Cole, che ebbe il piacere per una volta nella vita, utilizzando la tecnologia ormai di qualche anno fa, di duettare con il papà Nat King Cole in una versione indimenticabile di Unforgettable, che è stato uno dei successi di suo padre. E da Nat King Cole, eccola qui un'altra artista che consiglierei a Stefania, quindi come disco da acquistare per sua figlia. Stefania ha scritto una mail chiedendomi dei consigli su quale potrebbe essere la discografia che deve acquistare per sua figlia, che vuole fare da grande la cantante di jazz. Eccola qui, Dinah Washington. Non può mancare, perché con Dinah Washington si apprende tutta la passione del blues, e quando poi a sostenere una voce così, quella che poi ha stimolato Etta James ma anche Aretha Franklin, quando una voce così è sostenuta da un giovane arrangiatore chiamato Quincy Jones, e allora le cose diventano veramente piacevoli e interessanti. Il brano si intitola If I Had You, Dinah Washington, al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, Il suono della musica. Protagonisti alcune delle voci più importanti della storia del jazz questa sera al soundcheck di Radio 24, stimolati da questa bellissima email che abbiamo ricevuto, scritta dalla signora Stefania, preoccupata per la figlia che da grande vorrebbe fare la cantante di jazz. E quindi abbiamo già proposto il papà di tutti i crooner, Nat King Cole, la super voce blues di Dinah Washington e naturalmente non potevano mancare Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Stiamo parlando proprio del, come direbbe mio nipote, del top di gamma della vocalità jazz. Anche questa è una data importante, 1956. Ella Fitzgerald e Louis Armstrong si incontrano in studio di registrazione per dar vita a un album intitolato semplicemente Ella e Louis, uno dei più belli e più importanti della storia del jazz. Questa è una versione di un classico di Irving Berlin intitolato Cheek to Cheek, e con loro, lasciatemelo dire, c'era una ritmica impareggiabile: Bellis alla chitarra, Oscar Peterson al pianoforte, Ray Brown al contrabbasso e, udite udite, Buddy Rich alla batteria. 1956 per Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. E nello stesso periodo, un anno più tardi, un'altra grande voce femminile, una signora che ha fatto anche lei la storia del jazz, entra in studio di registrazione e realizza un album che poi è diventato forse l'album più importante della sua carriera, Swingin' Easy, e vi sto parlando di Sarah Vaughan. Anche lei un carattere un po' diverso da quello di Ella Fitzgerald, molto più scontrosa, anche un po' timorosa in studio di registrazione, ma che voce, ragazzi! E eccola qui con un classico intitolato All of Me, Sarah Vaughan al soundcheck qui su Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Oh yeah. Il jazz è musica sempre in evoluzione, e anche la vocalità nel jazz si è evoluta col tempo, e oggi stiamo raccontando alcune delle voci più importanti per rispondere all'email della nostra amica Stefania, e che quindi acquisterà tutta questa discografia a sua figlia che vuole fare la cantante di jazz. E questi erano John Hendricks, Dave Lambert e Annie Ross, il trio vocale che ha inventato il vocalist, questa arte vocale che permette ai cantanti di poter riproporre in chiave vocale, lasciatemi il bisticcio di parole, arrangiamenti anche orchestrali. E l'esperimento nacque con Hendrix, Lambert e Ross, che rifacevano gli arrangiamenti di Count Basie. Questo è un brano di Duke Ellington, questa è la loro versione vocale intitolata In a Mellow Tone, da un album del 1960 che presenta The Hottest New Group in Jazz, ovvero il gruppo più caldo della storia del jazz fino a quei tempi. Da non perdere Hendrix, Lambert e Ross, perché poi dopo di loro c'è stata veramente un'accelerazione anche nella vocalità, nell'avvicinare sempre di più l'utilizzo della voce al fraseggio strumentale. Chiudiamo comunque con questa passerella di voci splendide con The Voice in persona, 1962, quindi siamo partiti dal 1955 con Nat King Cole, siamo arrivati al 1962 con l'orchestra di Count Basie che incontra The Voice in person, Frank Sinatra, My Kind of Girls, e anche Frank Sinatra è naturalmente da ascoltare, da conoscere, da apprendere, bisogna avere almeno una decina di dischi di Frank Sinatra per capire la grandezza di questo cantante che proprio quest'anno festeggia i 100 anni dalla nascita. Quindi dedicheremo a Frank Sinatra un'intera puntata del nostro soundcheck, e con Frank Sinatra e Count Basie noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo 19:15, quindi a tutti voi buona settimana e buona musica da Giorgio Telesforo. She walks.